Hai già buttato! Ho preso il 6. Uffi! 10.000 soldati di quella mucchia, sì, esatto. Ci sono altri 800.000 soldati dietro di te, compresi il generale. Fammi vedere. Ah, no, non posso prendere. Sei il primo che sei sulla spiaggia. Sì. Ah, lo posso, vai. Falcidiare o di vincere? L'aveva detta la radio che a rubamatto vincevo io. Primo per cercare di sfilare. Ma no, perché io le ho tutte, sì. O ti butti per terra e fingi di essere morto. Grazie, Marco. A me mi sembrava che l'avessero detto alla radio che vincevo io a rubamatto. Avrei sparato a Mario. Bella. Allora, avrei sparato. Questa è veramente. Questa è bella, questa è. Perché Bubi e Batti fa avanti, fa tutti i team sul palco? Con quattro, io. Ma no, questo qui non è di Bubi e Batti, ovviamente. E allora, abbiamo, ci sono degli altri collegamenti. Dato prendo pronto, ricordiamo morto per morto. Sì. Dove avrei fatto il bagno? Toccava? Quattro con quattro. Allora, ci scherziamo sul morto per morto, ragazzi. Allora. Devi prendere quello. Praticamente o ti fai falcidiare senza problemi. Sono solo un quattro. Prendetela seriamente. Non è difficile però rispondere a questa domanda. Sì, sì. Io non so. No, insomma, dovete prenderla seriamente. Se uno ha lo spirito di patriottismo, sì. Bello, si verificasse. Ma certo. Morto per morto, meglio farsi falcidiare. Dice, magari, sì, sì. Non c'è più la ritorna. 2000 anni fa sono io che ce l'ho. Ehi, aspetta. Adesso 10.000 soldati che camminano sulla grazie. Ma non è mica tuo, scusa, è lì. Sì, l'ho messo sì, io. Se sei di partito ho preso la chiamata. Certo. Allora, stiamo provando ancora dei collegamenti internazionali, lo diciamo. Sì, sì, sì. Questa sera. Certo. Barsport che esce in tutte le sale. 300 quante copie. Quante sale esce? 300 copie. 300 copie. Allora, dite a Yumi che ha rubamatto vinco io. Dice Stefano, alla gente. Per terra gli sparando per assicurarsi che fossero morti. Non so se è una base. Hai visto che l'hanno detto alla radio? Molto, che a rubamazzo vinco io morto per morto. Sono i commenti che arrivano dal 342. Vuoi rispondere al mio commento? Sì. Cosa vuoi dire? Non è vero, vinco io. No, noi dobbiamo dire una cosa, esce il 306. Allora, qual è l'immagine che campeggia davanti? Quando c'è questa ragazza, messaggio questa, questo top, dice anche lei l'abbiamo lanciato tutto il motor show, ha fatto quelli che il caso, che ha fatto non è vero. Il motor show con me, sì, perché tu hai toccato il tuo, ma non li toccava Aura, Aura. E che vince lei? Siamo noi. Aura. Va bene? Aura. Sì. Noi sì. Aura, sta dormendo, ma finta di dormendo, ma finta di non conoscersi noi chi? Adesso ti abbiamo lanciato, ti abbiamo messo lì sul corpo, ti sei fatto mettere le mani nelle tette del motor show, stai dormendo. Cosa? Elia Media, Anatonorti Vaz, Multi Media Channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Elia, Elia, Aelia, Elia, Lelia, Lelia, Lelia, Elia Media. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao!

robaccia. Once upon a time, there were two balloons called Jock and Yono. They sì, were strictly in love, bound to happen in a million years. They were together, man. Adesso mi sono sudato la gran robaccia, adesso risuoniamo. E, così, volevo ringraziarvi per essere venuti, io sono Stefano Pasquini, abbiamo avuto Federico Croci, Sara Corona e Marco Maggi. Hai qualcosa da aggiungere, Marco Maggi, detto anche DJ Paglione? No, che voglio DOA. Eh sì, un attimo, aspetta che prima finiamo un attimino DOA. Cos'è sta roba? Ma i DOA che cosa ci canteranno per noi stasera? War, che è un vecchio pezzo di... Eddie Cochran. È un vecchio pezzo degli anni 60, rifatto da... dai DOA che passarono pure loro in via Vessa, dove organizzavano concerti. Ti avevo portato anche in negazione in piazza Puntoni. Ah, caffè. No, no, beh. A eliamedia.org. Bene, passiamo la palla a Daniela Spagnamusso con con War dei DOA, che non c'entrano nulla con quello che farà lei stasera, giustamente. No, farà l'amore lei. E non la guerra. Esatto. Listen to this. Wow, it's an enemy of all mankind. It's not a war, but mine. War is cause unrest in the younger generation. Induction, destruction. Who wants to die? War. Regard your what is it good for? Absolutely nothing. Say it again. War. Say it, say it, say it. What is it good for? Absolutely nothing. Now listen to this. Shattered many young men's dreams, made him disabled, bitter and mean. Life's too short, precious to be fighting wars each day. War can give life, can only take away. Oh, oh, oh, oh, oh. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again. Regard your what is it good for? Absolutely nothing. Now listen to this. War ain't nothing. Just a ball. Wow. Buonasera a tutti, sono Daniela Spagnamusso e oggi è domenica 23 ottobre, sono alle 18. Inizio la mia programmazione leggendovi un'insegna trovata nei giardini che sono di fronte, intitolata Largo Vittorio Puntoni. Le incursioni aeree americane alla fine del 1944, nel tentativo di distruggere la linea ferroviaria e l'azienda del gas, colpirono anche alcuni antichi edifici caratteristici della vecchia Bologna, non ricostruiti in seguito per assegnare una prospettiva più ampia al vicino edificio dell'Accademia di Belle Arti. Questo piccolo giardino, compreso fra i muri degli stabili adiacenti e la cancellata, vuole ricordare la posizione originaria degli edifici. La cancellata oggi, eretta sul muretto di contenimento, segue proprio la definizione nord delle vecchie costruzioni abbattute. L'area, pavimentata con cordoli di granito, circoscrive lo slargo intitolato a Vittorio Puntoni. Il grecista dell'Università di Bologna, che nei primi anni del secolo fu il promotore principale della costruzione del grandioso complesso edilizio universitario, compreso tra i viali di circonvallazione via Zamboni. Bologna, giugno 2002. La targa sopra il parco, Comune di Bologna, Parchi e Giardini della Città. La gestione di questo parco prevede 1. Lo sviluppo dei prati deve essere contenuto al di sotto dei 15 cm di altezza. 2. Periodicamente e costantemente garantita la pulizia dell'intera area e lo svuotamento del contenitore portarifiuti. 3. Le panchine, i giochi e le attrezzature sempre efficienti. 4. Costantemente garantita la sicurezza statica delle alberature e la tutela di queste da ogni affezione. 5. Le lampade dell'illuminazione pubblica sempre efficienti. 6. I percorsi pedonali sempre ben agibili. I parchi e giardini sono affidati alla collaborazione dei frequentatori, che per ogni segnalazione possono fare riferimento al numero telefonico 051 20 30 40. Contribuendo a quel miglioramento di qualità che è obiettivo primario del Comune. Questo è il mio primo annuncio, perché questo giardino è chiuso. E non ci sono giochi. La seconda scritta che vi voglio leggere è nel palazzo di fronte, dove c'è una meridiana. C'è scritto che i cittadini possano sempre contare ore serene. Nessuna novità sotto il sole. 1935, la scritta è in latino. E l'epigrafe alle mie spalle, sul muro della Pinacoteca, in questa casa delle arti, dove perpetui durano gli ammaestramenti di Ludovico Annibale ed Agostino Carracci, qui dove è il tempio delle opere, loro immortali, un comitato di cittadini e gli artisti della società Arte e Vita nel novembre dell'anno 1907 posero.